posizionate adesso? 10 minuti fa, va. Prima di cliccare bisogna insomma un po' girare. Ma io sto guardando un po' di TV, niente di che, non è ora di dormire adesso, e sono andato a mezzanotte l'una, i due. Bene, bene, no vabbè, domani dovrò scendere la mano di nuovo là, ma fare a piantare più che altro. E io lo sento a Fabrizio, cioè sta lavorando più lì che ad altre parti. Diciamo che non vedo l'ora di finire, che vabbè, lì non c'è fine mai, lì piazzi una cosa, vento, ne butta giù un'altra, piazzi, oh, hai giubilato la mola, non ci sei caldo tutto io. Ma è questione di gusti. Questione di macchini, Dino. Vabbè. Gusti e colori non si discutono, neanche i vizi. Lo so, vabbè. Lì ci sono altri interessi, io interessi non ne ho. Quindi io ci ho provato, ma non mi interessa. Ho fatto via soldi e boh. Preferisco tenermi in tasca più che montare direttive e balle e poi farà. Va bene così, tanto. Si arriva lo stesso. Andare. Poi ognuno conosce di suo e fa quello che vuole, naturalmente. Preferisco fare altro. Va bene. Lo stai combinando. L'hai sentito poi Antonio? No, ci dobbiamo sentire domani. No, non c'è problema. Ci dobbiamo sentire domani, dopo aver finito l'altro. Io. Va bene. Cosa stavo dicendo? Un'altra cosa? Non mi ricordo a te lui. Ma no, vabbè, niente. Lavorare a lui, se lo vuole. Io lo aspetto sino alla prossima settimana. Inizio la prossima settimana, dopodiché lo do. Perché non è roba mia, fa parte di quel pacchetto, poi domenica devo andare a ritirare altra roba. Fa parte di quella roba lì. Quindi, se le interessa me lo dica, se no lo do. Penso che già lo voglia comunque. Il mio lo stesso, vabbè, ne era una settantina, questo ne era una sessantina, vabbè, io lo piloto con i baracchini, 4-5 watt, 6 watt, non di più, penso che siano quelli i watt, no? 60, 70. No, assolutamente no. Comunque, io, sarà perché la radio è spinta, boh, non lo so. A me già 50 mi dai portante fissa, poi immaginati in modulazione, da quando fischio va oltrepassa la soglia dei 120. Ma cosa, 747, questo malissimo l'hai bruciato? No, assolutamente, perché sto dando mezzo watt di entrata, claro. Io l'ho notato a te, perché questo va 60 watt. Il mio nuovo, mai usato, diciamo, lo stesso da 70 watt, come fa da 120, non gli compresi, vabbè. E già rimane qua allora. Se lo vuole Antonio glielo dico, guarda che da 60 watt, quelli sono e quelli sono, perché è nuovo, non è mai stato aperto, quindi vuol dire quello tuo è stato modificato, è stato aperto. No. Io due mi operato, non è che uno vale quanto l'altro, solo che ho fatto una cazzata e vabbè, gli altri sono svampito, entrambi e davano la stessa cosa, quindi, ma in base alla radio sicuramente, non è che, in base al picco di modulazione, lo dove ti dica. Vabbè, ma tu c'hai esigenze, questo io lo do per 60 watt, chi lo vuole è così, 40 euro e se lo porta via, se non rimane dentro l'armadio non c'è nel problema, ma oggi c'è la piscina degli agenti, prendi, dammi, lascia, tira e molla, io l'ho provato, il mio è lo stesso, il mio non va più di 70 watt, non va più di 70 watt, non, 747 ne ha avuto tantissimo. bassissimi e non danno più di quel watt. Una moneta a 120 vuol dire che non è originale, non vanno cambiate il finale sicuramente, perché una linea retta da 100 watt, quindi da 100 watt massimo 100 watt, vabbè, non discuto, se tu è così vuol dire che sarà diverso di questo. Io ne ho due e danno tutte e due la stessa potenza, lui non so, comunque io lo vendo per 60 watt, prendere e lasciare 40 euro, chi lo vuole se lo prende, chi non lo vuole rimane tra l'armadio. Andare, te lo dico perché ho la rosma trovata dentro a sottocchio, quindi vabbè. Questo è nuovo, non sono toccati. Non capisco come faccia il tuo, quello di Gianni da 80 watt, quello di Coso da 80 watt, di Marco, l'altro da 80 watt e tu da 120, vabbè. Il 350 lo Coso, un B300, come fa un 747, cazzo dare quella potenza con un finale, non c'è un pesce, vabbè. Se tu dici così, ti credo, ma i miei, io ne ho due, tutte e due danno la stessa potenza. A parte che non ho un finale, ne ha 4, no? Allora, 747. E allora? 4 finali, è da canto. Ma te lo apro, devo aprire, non ti devo fare un video, cosa devo fare? Non ti do quelli che ho bruciato. No, ho detto da quanto sono questi finali? Da quanto sono questi finali? Cazzo, gira gira, è più forte un 747 da due citi che un B300. Quindi il B300 ti dà gli stessi watt del 747. No, il B300 non ne dà di più, però se ne va in radio, quindi no, perché l'ho tolto secondo te? Io ce l'ho nuovo, non è che ce l'ho parcheggiato, proprio perché quando tu metti a sesta potenza magari ti dà 100-150 watt, però ti rovina la radio. Questo invece te ne dà modulati anche, fa da 90, ti ho detto picco massimo, se io fischio tocca 120, ti faccio un video così almeno ti rendi conto di quello che sto dicendo, perché magari sembra che ti dico coglionate. No, ma anche dici coglionate tu, no, io non ci credo proprio, ma anche se me lo fai vedere, io non ci credo che quel 747 sia, perché io non sto arrivando ad andare a piedi e Dio, ho abbastanza esperienza nelle cose. Li ho provati da quando sono usciti quei lineari, io non ne ho mai trovato uno che desse 120 watt. Addirittura io ce l'avevo in macchina con l'Alan 48 modificato, non arrivava a 100 watt. Quindi non capisco, non è che non credo a te. Sicuramente quel lineare non è originale, c'è qualcosa che hanno fatto, che hai fatto, che ti hanno fatto, non lo so. Io ce l'ho originale, ti ho detto, li ho sempre avuti originali e non da più di quello, non è che non ti credo. Non credo al fatto che ci sia un 747 che dia quella potenza se non è toccato, se non è modificato. Vuol dire che i finali non sono originali, sono più forti, non lo so. E poi per quanto riguarda il B300 io te l'accendo, certo in sesta potenza mangia la modulazione, ma basta metterlo in quinta, intanto non cambia niente da 120 a 150 o da 130 a 150. Io l'ho provato in quinta marcia, la modulazione non cala per niente, rimane stabile, bella, pulita, anche forte, e i watt sono 130. Recuperare 20 watt e poi non aumentare manco di segnale e mangiarti la radio, tanto vale tenerlo alla quinta potenza. Io le do d'ingresso 6 watt, 5 watt, modulati 6-7, e me lo porta benissimo sino alla quinta potenza. Cosa vuoi dire? Il mio, ti ripeto, alla sesta mangia la radio, no, la quinta, la quarta, non so, non mi interessa, è una cosa che ho tolto perché sinceramente non va. Però non va con me, con la radio che l'ho provato, non mi interessa averlo, non andare così. No, io ce l'ho e funziona benissimo. Ho usato con tutti e tre i vintage, tranne che col DAC, con l'Elbex, con lo Standard, l'ultimo che ho comprato base, col Polmar, viaggia alla grande T, sino alla quinta potenza però, va benissimo, veramente molto molto bene, c'è il amplificatore d'antenna, per i segnali bassi, amplifica bene, funziona bene, funziona bene, quello lo tengo perché no, no, attaccato sul DAC rotere, ripeto, non da più di 60 watt, pieni di là, e rimane fermo, stabile a quella potenza. Così penso sia anche quello di Marco, mi pare, quello che c'ha dell'RM, lo stesso da 70 watt, che è meglio, che siccome è 747 però lo fa da RM, capito? E dà lo stesso quei watt, non so, vabbè, se tu è così vuol dire che credo, però ti ripeto, io su tutti quelli che ho avuto dei 747, ne ho avuto tanti, forse 6 o 7, sempre con la potenza là, no? Quello non lo so perché così, vabbè. Sarà, comunque, Antonio gli ho già detto, se lo vuole è così, e se no già rimane in Chivi. Adesso sabato intanto, cioè domenica mattina, andare a ritirare un altro po' di roba, sempre della stessa persona. Vediamo cosa c'è di buono. Sì, è tanto una roba mia, è giusto per venderla, per darla a qualcuno che serve, non so. La cosa bella è che mi dà un panel più 2 da tavolo, però c'è la connessione Kenwood, quindi lo dovrò provare qua sul K per vedere se funziona, poi una volta che funziona, allora lo metto in vendita, taglio il connettore e chi vuole se lo fa a 4, originale CRS, quello dei tempi passati, quello c'è un po' bene. Sì, ma arrivo, dopo da, cioè devo preparare la cosa a Nicola, sentiamo più tardi, se coincide, se no a domani. Ma sempre a quest'ora mangia il piccolo? Mi viene fame a quest'ora, latte, anche più tardi, ormai. E sugar, indietro mantenga, va bene, va. Vai a preparare, vai. No, mi sto guardando un film, già sono qua in ascolto, dai. Se coincide, se non vedremo prima, ciao. Ehi, va bene, ciao dopo. Vabbè, sono, non hai.